tutti un po' su, ma dal punto di vista di chi l'aveva elaborata, ammettiamolo pure, l'ipotesi che l'alba dell'anno 1000 d.C. potesse segnare la fine di questo povero mondo non mancava di una sua logica. 1000 in sostanza è una bella cifra tonda, in cui bella e tonda sono valori di un qualche tipo, non importa quale. E una volta ammesso che l'universo sia il frutto dell'attività di un creatore, intenzionato prima o poi a porvi clamorosamente fine, l'idea di far coincidere l'atto estremo con una data avvalorata, come a dire significativa e perciò stesso prevedibile, sembrava abbastanza ragionevole. Naturalmente bisognava ammettere anche un certo numero di postulati minori, trascurando il fatto che 1000 fa cifra tonda soltanto nel sistema decimale, che non è l'unico sistema numerico possibile, e supponendo con un filo di superbia che il sommo fattore si interessasse esclusivamente al nostro pianeta, anzi a quella parte di suoi residenti che da quella tal notte di Betlemme contavano gli anni. Ma questi erano appunto dati su cui la cultura europea di allora non aveva nessun dubbio. Si sarà discusso con accanimento di questioni minori. Chi calcolava i secoli a partu virginis come facciamo noi si sarà scontrato con chi li contava ab incarnazione domini e quindi anticipava il patatrac al 25 marzo, 9 mesi prima. E quanti ponevano la fine millennio al 31 dicembre del 999 saranno stati guardati con compatimento da coloro che la prevedevano per un anno più tardi, perché un migliaio deve comprendere 1000 unità e non 999, certo. Ma nel complesso, del fatto che l'approssimarsi di quelle date giustificasse una certa inquietudine, non dovevano essere in molti a dubitare. Se poi si fosse scoperto che era un falso allarme, tanto meglio per tutti. Oggi naturalmente le condizioni culturali sono diverse. Sappiamo quasi tutto sulle aritmetiche non decimali, perlomeno da quando ne scrisse nel 1670 Giovanni Caramuel, vescovo di Vigevano. Il Papa stesso ha ristrutturato la sua teologia per far fronte agli imperativi convergenti dell'ecumenismo e della cosmologia moderna, ne parlavamo la settimana scorsa. Nessuno crede più che l'Onnipotente s'attenga nel contare secoli e anni ai calcoli di Dionigi il Piccolo, che determinò secoli fa, sbagliando, la data della nascita di Cristo. Di un re de rationem di origine divina, di fatto, non abbiamo paura. Oltretutto, abbiamo corso tante di quelle volte il rischio di distruggere noi il pianeta, accumulando ordigni nucleari di varia specie, sforacchiando fasce di ozono, scatenando virus perniciosi e scardinando equilibri ambientali, che un eventuale intervento divino in tal senso, con tutto rispetto parlando, non può che sembrare affatto superfluo. Eppure sembra che le preoccupazioni millenaristiche siano inesauribili. Sarà un caso, ma neanche noi riusciamo ad avvicinarci alla mezzanotte dell'ultimo giorno del 1999 con l'indifferenza che la convenzionalità dell'evento ampiamente merita. I cieli forse non si squarceranno. Il suono delle trombe angeliche non annuncerà, salvo sviluppi imprevisti, l'ultimo giudizio. I morti se ne resteranno tranquilli nelle loro tombe, ma non per questo eviteremo la catastrofe che a quanto pare inerisce al triplice 9. A farci pagare i nostri molti peccati prevederà l'inesorabile Baco del 2000, Y2K Bug per i più aggiornati. L'insidioso algoritmo annodato nella programmazione dei meccanismi cui è delegata l'amministrazione del nostro benessere quotidiano. Eviteremo con ogni probabilità di essere protagonisti dello sputtanamento globale della Valle di Josafat, ma corriamo il rischio di soccombere di fronte al blocco di una moltitudine di inetti computer incapaci di rendersi conto che il doppio zero che il loro calendario fa seguire a 31-12-99 non significherà 1900, ma appunto 2000. O intendiamoci, io di informatica personalmente non capisco il classico tubo, ma non ignoro che i computer sono manufatti infidi e non voglio affatto sottovalutare il problema. Personalmente intendo prendere tutte le precauzioni del caso, evitando di farmi sorprendere dall'ora X, non dico su un aereo in volo che figuriamoci, ma nemmeno chiuso nella cabina di un ascensore o sotto la doccia. Convengo sul fatto che chi non potrà permettersi di passare il prossimo San Silvestro in una località del clima mite farà meglio in quella data indossare la maglia pesante, ma resto convinto lo stesso che il Baco del 2000 rappresenti soltanto una versione culturalmente e tecnologicamente aggiornata della cara e vecchia fine del mondo. L'incapacità dei computer di leggere e comprendere il significato del doppio zero vi viene interpretata come l'incapacità stessa della nostra cultura di affrontare il nuovo millennio. D'altro canto basta pensarci un po' su per accorgersi che quella di affrontare un millennio non è un affare da poco. Di un millennio, di qualsiasi periodo predeterminato di tempo, possiamo essere sicuri soltanto quando finisce. Dire che domani comincia una nuova settimana, un nuovo secolo, un nuovo millennio o qualcosa del genere è soprattutto un azzardo. Nel senso che se possiamo dare abbastanza per scontato che il pianeta compirà il numero prescritto di rotazione attorno al Sole, nulla ci garantisce che ci sarà qualcuno a contarle tutte, e se anche ci sarà, che sarà disposto a prendere come punto d'avvio dei suoi conteggi lo stesso che usiamo noi. Non vorrei sembrarvi irriverente, ma nulla esclude che i nostri discendenti, se ne avremo, tra qualche secolo riterranno più interessante come punto di partenza della loro cronologia qualsiasi altra data. Dire che è passato un millennio significa riconoscere che per mille anni l'umanità o parte di essa ha tenuto fermo un punto di riferimento cronologico comune, come a dire che ha dato a un certo evento un valore epocale, e non sono cose da poco queste. I valori, tutti i valori, contano soltanto dal punto di vista di chi li stabilisce. Gli altri non sono tenuti ad adeguarcisi. In effetti poche civiltà possono vantarsi di aver vissuto più di un millennio, e pochissime sono arrivate ai due. Il calendario ebraico dovrebbe essere giunto, se non mi inganno, all'anno 5759, ma solo perché si giova di complessi calcoli retrospettivi, come ci spiegherebbe senz'altro il nostro amico Walter, ed è comunque un caso unico. Nei paesi islamici, non si è andato oltre il 1420 capodanno. I padri romani, i nostri padri romani, festeggiavano con gran pompa il loro primo millennio, in quello che per noi è il 248 d.C., ma già tre secoli dopo a numerare gli anni ab urbe condita non ci pensava nessuno. Visto che non potremo mai essere sicuri che i posteri considereranno importanti gli eventi che consideriamo importanti noi, e cioè che conserveremo il quadro valori che ci siamo dati, perché di questo si tratta, l'atteggiamento di chi affronta una scadenza plurisecolare, per non dire millenaria, è quello di chi scommette sulla propria sopravvivenza personale o di gruppo. In queste circostanze, non che stappare champagne, l'istinto è quello di toccare ferro. Se ci sarà un futuro, è molto probabile che ci darà torto. Se non ci sarà, il nostro aver ragione coinciderà con la fine. La scelta è sgradevole, anche perché non dipende da noi. Ce n'è quanto basta per giustificare non uno ma un milione di bachi. E quali bachi, peraltro? Non vengono certo dall'esterno, non sono il frutto di circostanze incontrollabili e di necessità di fronte alle quali non si può che chinare il capino. La paura della fine del mondo, quella dell'anno 1000, si estrapolava organicamente da tutto un insieme di credenze e insegnamenti di cui i detentori del potere si servivano da secoli per tenere i soggetti buonini al loro posto. La prospettiva di un catastrofico blocco dei sistemi computerizzati oggi nasce dalle scelte compiute a mente fredda da chi a suo tempo ha scelto la prospettiva del guadagno immediato rispetto a quella dell'affidabilità del prodotto, e sui suoi errori si appresta oggi a guadagnare ancora producendo i programmi per eliminarli. I veri bachi che tarpano le ali dell'umanità restano l'avidità di potere e quella di sfruttamento economico, e per liberarsi di loro, lo sappiamo, ci vorrà forse un po' più di un millennio.